sì. Ehi, ciao. No, credevo l'altro cocuomane, non tu, no, Antone. Ah, potete avere anche io. No, siccome ho visto il segnale a 9.30, a 9.30 sta arrivando. Sto usando 140, io credo, ha messo anche il capo, no? E adesso è il 213. Capito? Ria, non vai in terrazzino a bronzarti, no? Ciu ciu. Stamattina sono uscito in terrazzino, ho dato l'antenna della Big Band. Adesso in HF riceve benissimo, in V il canale non 16 l'altro, lo dicevo appena basso. Tra un elemento e l'altro di quella che c'è questa specie di coso, di separazione, capito? C'è una pare di come posso dire, non è rame, hai capito? E al centro di questa cosa è rame, dove si cancello i due stili, c'è la pare nero. E proprio con te se non da parte della rota non conduce un accidente. Antone, io ho capito il capibile, c'hai un rumore di fondo allucinante, una specie di vento, la turbina, poi la TV, eccetera. Aspetta che ti metto il microfono normale e te lo spiego. È già meglio, dai. Mi sa che adesso meglio, sì. Meglio. Ti stavo dicendo, Marco, che in HF con la B-banda ricevo benissimo, però in V c'ho problemi. Tra un pezzo e l'altro dell'antenna c'è questo materiale che non è rame, hai capito? È bronzo, una specie di bronzo. E tra un coso e l'altro c'è questa, una cosa nera, metallica. Non riesco a capire cosa diavolo sia. Non conduce, hai capito? Una cosa nera metallica che non conduce, però. Prima di tutto, che antenna è, che marca è, che modello è? La Diamond è quella lunga. Quella lunga quasi 1,70 m. Allora, se 1,70 m è la X50. No, la X300 non lo so quale sia. Sì, perché la X50 è 1,70 m, la X30 è 1,50 m. Almeno, se non sto sbagliando io, era così. No, è più lunga, più 1,50 m. E devi fare due pizze, capito? Naturalmente quella col tubo interno, no? Cioè con le... quindi in vetroresina con il conduttore interno? C'è in pratica la vetroresina e poi c'è il conduttore interno. Il primo pezzo va tutto bene, dal TL al primo pezzo va tutto bene. Come arriva a agganciare la seconda, dove c'è tutto il resto delle bobine, pessimo, tutto il resto delle bobine che ci sono, c'è questa cosa in metallo, hai capito? È fatta in... non è rame, hai capito? È tipo bronzo rimane. E tra un coso e l'altro c'è una cosa nera, però non ho provato a vedere se conduce nulla, ho messo il testo e nulla da fare, non ho, è come se fosse di piatto il secondo elemento morto, capito? Io ho avuto a che fare con un'antenna simile, non c'era continuità con lo stile, con tutto tra i due stili, no, quello, la prima parte e la seconda parte. Però a quanto ho capito andava per, come si chiama, una induzione, c'era un principio fisico, elettrico, elettronico, non so, per cui l'antenna comunque funzionava correttamente, pur non avendo continuità tra il primo elemento e il secondo. Però se tu mi dici che in VHF sta andando male, può darsi che lì ci sia un problema. Dicevo basso in pratica, il canale marino lo dicevo basso, invece in VHF lo dicevo benissimo, ho fatto la prova adesso. Ascolta, i radiatori in VHF come li ricevi? Però sì, pure che c'è anche stretta di banda, che sia, già lo sai quali sono tarate per le 144-146, forse che sia un po' stretta di banda, poi c'ha componenti all'interno, quindi è calcolata più per le bande amatoriali, capito? Non di quelle a larga banda per i ricevitori. Ho capito. Vabbè, sono piazzato con Capovolo e visto che non ho carte prima non diceva proprio niente, adesso ricevo. Ho fatto la prova dalla direttiva a quella e ho visto che già ricevevo fondo scala, il segnale delle, di quelli che sono giù a pronto soccorso. Poi in VHF invece in canale marino ricevo basso. Le stazionarie in VHF come sono? Basta andare appena appena fuori dalla banda amatoriale, tanto per controllare le stazionarie non muore nessuno, e vedere se, se è gravemente compromessa oppure se sta funzionando. Devo attaccare il rospetto 500 agganciati, adesso devo agganciarla, così faccio la prova a vedere un po' cosa ne esce fuori, aspetta un attimo, faccio la prova. E poi mi era fatta anche la direttiva allo stesso difetto con il coso. Perché la direttiva parte da 150 e qualche cosa fino a 500, hai capito? La stessa identica cosa in VHF, la frequenza marina dicevo bassa bassa, invece in VHF è un demonio. Aspetta quello, aspetta, voglio vedere se in VHF. E così ti dico se potete stazionare. Sì, sì, sì. Vuoi vedere se in V va o se in va V? Ci siamo compresi. Vabbè, aspetta un attimino. Sì, fai. Già mi stavo stazionando Simona poco fa. Cazzo, non ne posso la vita, ragazzi. Carità, cazzo. Che mi ha fatto fare, grazie a fidanzarmi, che non stavo bene come ero, grazie. Allora mi sono grazie. Vabbè, essere scapolo, i suoi pregi, però anche i suoi difetti, dai, non si può avere tutto. Lo so, guarda Giampiero, l'ho ricordato all'ospedale, da ieri, c'è la pancreatite, e lo devo operare, grazie. Hai capito? Cura! Mura attore, trove mura. Aspetta, guarda. Adesso no, aspetta. Ma adesso no, sto ridendo per muratore. Di nuovo un'altra cosa è venuta. Quindi una volta dimesso di nuovo degenza, dovete. Mamma mia, non uscite più voi. Ah, non sono io più, dottore, se l'ha preso Giovanna, quindi se non già lì. A fare i suoi, come ci vuoi testa io, cazzo, mattina e sera, a fare la presa a lui, a portargli quella, a portargli quell'altro. Mi stava venendo le elemento della cosa, mi stava venendo. Adesso già si sta mangiando lì, quindi sta venendo all'esercizio dei tre bambini, cazzo, e c'è tre bambini, più il Giampiero, e una di... Oh, aspetta che ti dire, insomma, mi si crepa 2 minuti. Sì, fai una nota solo, Antonè, che la modulazione anche con il mic normale è un po' cupastra, però, un po'... Non è proprio chiara chiara, è un po' tutta un po' così barattolata. No, cupa più che per barattolata. Va bene, fai. Natalino, se l'ascolto. 1 e 4. Dove? Tipo 146.025, grosso modo. No, dove in frequenza marina. Allora vuol dire che deve arrivare basso e boh. Però ricordati, quell'antenna non è fatta per la banda marina, è fatta per quei 2 MHz di banda amatoriale, quindi farà sì che si abbia una discreta attenuazione di ricezione in banda marina. D'altronde anche qua il segnale marino arriva sempre basso, qualsiasi antenna messa con ricevitore è abbastanza basso. Ho capito. No, come è fatto? Lo schiacciamo, 1 e 3, 1 e 4, non di più. stiamo bene. Inizia ad andare in cosa a vedere. Aspetta. Vediamo cosa cazzo ne dice. Allora, ATP è a 156 qualche cosa. Aspetta. ATP 1.1. Ecco, allora sta funzionando l'antenna. D'altronde, Antonio, come si chiamano quelle antenne che c'hai il cavetto, c'hai la basetta dietro il vetro e l'antenna risulta dall'altra parte del vetro e funzionano per, come si chiama, induzione quella? Guarda, quella ce l'ho io, per la telefonia era, 4.50, se non mi ricordo male. Ce l'ho qua, l'induzione sì, tramite c'è l'adesivo da una parte, l'adesivo dall'altra, ma se abbiamo l'adesivo li mettiamo di fronte all'altro e poi agganciavo il telefono e ti faceva l'antenna esterna. Ce l'ho una qua, mi manca solo il cavetto e lo spinotto. Sì, sì, allora, che io ricordi, forse era la SG7009, c'aveva uno degli elementi, che gli elementi erano 3 o 4, adesso non mi ricordo, mi pare 3, 3 per 5 ottavi, c'era uno, non c'era continuità tra una parte dello stilo e un'altra, ma c'era questa cosa intermedia, e invece funzionava bene, era calcolata apposta per funzionare in quel modo lì, E ho capito. Funzionare in cose, in una casa ce ne ho quasi due. Questo canale 7 in PMF. Però sicuramente è tratta sui 433 e quelle bande lì, capito? Proprio prettamente amatoriali. Invece quella solo per la UHF è discreta con la BC202 ed è tutta l'alluminio, alluminio a due elementi, 2 per 5 ottavi, però non c'ha quel circuitino interno, quei piccoli condensatorini a lenticchia, no, è alluminio, come fosse un'antenna per la 27, e c'ha mi pare 1.2, massimo 1.3 in PMR. Da parte però, lasciata a parte usi futuri. Ah, ho capito. Cappa. Cioè, va bene, sta funzionando adesso, cazzo buco, che antenna. Stavo per buttarcela la vetta. Perché ce l'avevo messa da una parte, perché non funzionava. Forse era il capo, la gatta, non funzionava proprio niente. Adesso sta funzionando, questa cazzo li ha preso, non lo so, ma... La maglia ce la metto sopra il tetto, ce la metto, tanto c'è il paletto, c'è, è pronto sopra l'antenna della TV, ci piatto l'antenna la verticale, così almeno stacco la direttiva, stacco che è stato appeso anche il trono, perché devo sistemarmi il palo, capito? Devo sistemare. Okay. E almeno sono tranquillo e... perché stavo secchiando il muro appena appena parlo, perché sotto quello della manta qua. E gli metto quello, io delle che manca, ne manca un altro, gli ho dato un'altra cosa, se la piglia in culo. Speriamo che non faccia l'impresa con la manta, ma sono fregato, adesso un terrazzino la multibanda, l'ho messa in terrazzino attaccata a un coso. Già la lascio lì, se la piglia in culo, non è che ci perdo molto. Ho messo il talk back, funziona, vabbè, se uno non ha l'eco non se ne fa niente, almeno capire se sta uscendo il radio. Ecco, ti volevo dire, sì, poi io avevo visto differenza, Antone, rispetto a quelle antenne, cioè più corde sono queste B-banda, hanno meno guadagno, però sono un po' più larghe di banda, sono più di bocca buona, sono uno va in PMR per dire, no? In trasmissione. Invece più sono lunghe, 3 per 5 ottavi per esempio, danno il massimo guadagno nella banda per cui sono create, cioè quella amatoriale, però poi come ti sposti da quei 2 MHz in VHF e quei 3, 4, 5 MHz in UHF cominciano a salire le stazionarie molto molto di più, sono fatte per dare il massimo su quella banda per cui sono nate, capito? Però se ti allontani allora si degradano le specifiche, salgono le stazionarie eccetera. Cappa. Ho capito, adesso l'ho messo la TV, stanno fuori, ci ho pensato in ferro, cioè dove c'era la canale a pesca prima, la canale a pesca l'ho scesa. Cazzo, Tarazzi non vende, è una cosa allucinante. Quando l'ho messo sopra il tetto, è come se l'antenna aveva per i cazzi suoi. Sai, ragazzo, la biglia. Adesso l'ho messa in terrazzino, l'ho lasciata lì, smontata. Anche perché questa cosa lunga, cazzo, 7 metri, non è che sia bella da vedere, no? E poi verde di colore, cazzo. Ma tu ti riferisci alla canale a pesca? Ehi, alla canale a pesca. Mi riferisco proprio a quella. Che l'ho usata gli altri giorni per fare le prove, prima di prendere questo apparecchio qui, per cavare il Saturnecco. Ho dovuto agganciare proprio la nuova antenna. L'unico modo era quello, cazzo, per poterlo mettere a posto. Se non ne cavavo pivi, non sapevo cosa diavolo era. Si attaccava il lineare, lo smite, la stessa arriva a fondo scala, certo. Si attaccava il lineare, lo smite più di 6,5-7 non saliva. Poi ho preso e ho cambiato il trimmer e gli avevo preso uno da un circuitino che c'avevo. L'ho saldato lì. L'avevo girato, non agiva lo stesso, dopodiché mi è venuto il dubbio, ho già pigliato la giabbessa. L'ho pulito appena appena, ho girato il chip, tac, come ho girato a primo colpo, funzionato, perfetto. Ho lasciato due giorni acceso l'apparecchio, ho detto voglio vedere se si vala. E invece ho visto che era perfetto, non sono sceso e l'ho dato. Si è preso il pilota, si è preso. Mi ha telefonato, ho detto, baracchino, ho detto, mi ha detto cos'è, ho detto un 278 canali. Dice, vengono gli altri un'altra mezza a prenderlo, ma poi Claudio mi ha portato questo verso le 10 e così almeno gli ho dato tutti i soldi che avevo là e sono a posto. E questo rimane qua, almeno lo uso per fare devo farmi la riparazione del come si chiama, del 2009, per la taratura lì dell'FM, capito? Poi la taratura della M, qui, meno male c'ho quello schema che mi hanno dato, ed è facile trovare la cosa, capito? Almeno con frequenzimetro, metto le cuffie come facevo una volta, così 80, e noto se sono leggermente spostato oppure no, sia qua che in banda. Sì, ma sono tarature in frequenza, ce lo devi mettere a lineare di frequenza oppure altre cose? No, avevo a lineare di frequenza di ricezione il coso del 2009, perché se no devo girare come si chiama, in fine cosa, capito, per poter ascoltare bene. Ed è il trimmer che è vecchio, capito, devo cambiargli quello del coso, che non ne ho mai pulito, quindi adesso vediamo un po', mi cambio quel trim e poi vedevo se c'è altra roba, gliela metto nuova, almeno è a posto. Con il 4000 funziona benissimo, quello è un treno con l'apparecchio, è solo il 2009 che ha più di 20 anni, cazzo. Ah, il 2009 è quello di una volta, quello 240 canali, eia. Sì, è una cosa che ho fatto io, la ricezione l'ho centrata a orecchiometro, adesso il clavifer rimane in posizione centrale, prima lo devo girare tutto. Non solo, ero riuscito a centrarlo anche in trasmissione, sempre fatto a orecchiometro, ma era uscita una cosa sublime. Proprio bello centrato. Non mi ricordo cosa avevo usato come ricevitore, era una cosa molto bella, giusta come frequenza, ma come dico la prassi adesso, tanto l'apparecchio è mio, anche se vai a orecchio, l'importante è poi che sia centrato per il 90% delle persone che ti sentono. Poi certi dicono sei spostato, e bisogna vedere se sei spostato tu davvero o se loro hanno la ricezione spostata. Io quando fate le prove a mano laterale, centrati ce ne so ben pochi, cioè siete tutti uno a destra, uno a manca, uno al centro, capito? E non si sa quale veramente di tutti voi che ha modulato magari in USB è veramente centrato oppure no. Lì ci vorrebbe un HF ovviamente centrato per vedere la frequenza giusta, però con i baracchini non sai veramente se sei spostato tu o chi stai ascoltando. E infatti l'ho preso per quello, questo. Pensare a quelle che palazzino, se no non cavavo chili. Per evitare qualche cacciavite a destra e a sinistra non si chiedeva nulla, perché era banda larga, già lo sai, quegli altri apparecchi. Invece questo te ne accorgi subito con questo qua, perché senti il sibilo, capito? Ecco perché. Va bene, almeno ho fatto una cosa possibile. Adesso domani mi sistemo l'alimentatore con un vecchio, dicevo, da quando avevo comprato il 70, così almeno sono apposta, perché sto usando l'alimentatore cinese da 25 ampere, questo lo regge benissimo, sto uscendo con 15-20 watt di potenza, a voglia, c'è anche per i porci. E notte ho fatto un collegamento, con Portogallo alle 11:30 di notte, mi ha chiamato, gli ho risposto e dopodiché devo andare a letto. Ah, nel cuore della notte, perché di notte si allunga la propagazione, invece ieri tipo 7:30-8 c'era, tutto sull'Italia, è entrato Bari, Polignano, Trani, l'altro cos'era? Bari, Polignano, Trani e un'altra città. Segnaloni. Ehi, figurati. Lo so, 10 a propagazione è un bel alto, ma sono d'accordo, su 45 specialmente, c'era parecchia gente, c'era, il 27, poi io notte, sentito questo, stavo girando, Portogallo, l'ho chiamato, mi ha risposto subito, che mi ha dato laterale, senza usare né cosa né niente, con i batter normali. E il microfono normale, perfetto, mi sentiva. Dopodiché se fa la 2, ma fa ancora un po'. Sì, ma mi pare che abbiano copiato ieri Giulio con un watt. Giulio diceva l'apparecchio regolato un watt. La chiamata l'hanno sentito. Io ne avevo 10, quelli proprio dell'apparato, del 7009, poi c'era chi ne aveva 30, chi ne aveva 50, chi ne aveva 100 forse, però sentivano tutti, tutti, incredibile, guarda, no, incredibile, credibile. E poi c'era l'operazione alta ieri, non sente nessuno. Aspetta che mi avvicino i telefoni qua, perché quella è uscita, non vuole che strappasse di nuovo, cazzo. Già c'ha l'occhio nero. Perché voleva andare in farmacia, ha detto, fai da solo, ha detto, c'è bisogno di ci vengo io, a me l'ha detto, esci. Ma c'ho paura, ha detto, paura, ha detto, cosa vuoi, che ti faccia la scorta, ha detto, fai quello che devi fare, ha detto, poi al limite, gli ho detto, già sono qua a casa. Hanno mandato almeno a prendersi il coso. Fa un giro dall'amica sua e poi va in farmacia e torna qua. Ma non che non vada la cosa, la Sonia, ha messo qualcosa. Sì, c'è una notevole attività in PMR. Sull'1, sul 3, sul 4, gente che lavora, secondo me sono o i cantieri del 110% oppure via Viale Trento, anche quei lavoratori che stanno mettendo a posto via Viale Trento. A proposito, l'hanno aperta per andare verso via Bellieni, una sola corsia hanno aperto, però già è un bijou già così. Meglio così. Anche nel PD c'è gente comunque, su 4. C'è l'ospedale, c'è. Che parla, capito? Tutto senti, nome, cognome, di quello che c'è ricoverato, tutto lo intende, no, non ne frega niente, capito? Della privacy, di duda. Anche in PMR, altrettanto, gli ha sentito poco fa, nome, cognome di Guido. Non gli ha fatto nulla, no? Come nelle PD stanno operando? No, perché già dei softwareisti hanno fatto casino. E poi sa che non hanno proprio PMR omologati, ci avranno i baobab come sempre. Diciamo, io sto usando, li ho visti io, quando sono andato con Giovanna un giorno a pronto soccorso, ha portato la figlia, stava male anche lei, quindi sono dovuto andare anch'io, perché Alice quel periodo era a Milano. Tanto lui ve lo... la dottoressa, cazzo, comportate, e gli dice, no, guardate, io faccio cazzo, io lo sto usando, cazzo. Loro quelli, e la vigilanza fuori stava usando un altro portate, assolutamente differente, non mi ricordo che marca era. Ok. Poi ci sono quelli, come si chiama, di Rizzeddu, che usano il buffering dello stesso, certi usano un'altra frequenza, non se ne comprende nulla. Però rischiano, perché loro dicono, ma noi stiamo facendo una cosa socialmente utile, ma siccome stanno svegliando il cane che dorme, e quando il cane viene svegliato, quando sta dormendo, comincia a mozzicare. Ascolta, che frequenza le PDE? Canale 4. La frequenza non mi ricordo. Non ricordo l'uno. Sì, ce lo chiederebbe, non me lo ricordo manco io. Dovrebbe essere 433. 0.5 mi sembra che era il canale, se non mi ricordo, era l'1, non me la metto più, la verità. Poi chi vuole entrare avanti sotto? Il cane solo. Ah, il cane, cazzo. Ciao Anto. Oui, ciao Antone. Ciao, c'è anche, ho sentito che c'è anche il coso. Volevo dire in fretta. Ciao Anto, ben entrato. Caffa, benedotto. E chi si è arrabbiato? Cosa è successo? No, io arrabbiato, no, mi è venuto. Il saluto deciso, ciao Anto. Facciamo la voce da finto masculo. No, stavo dicendo, ho sentito il cane che dorme. Ah, no, credo che tanto è risaputa questa storia, che quelli che giocano software domenica stiano usando un po' troppi watt su frequenze LPD che sono in condivisione con i radiatori, no? E giustamente qualche radiatore si è girato le balle e ha detto, adesso basta, però, perché interferiscono anche con canali loro, potrebbero interferire con ponti, con l'ingresso ponti, uscita ponti, e quindi credo che sia stata fatta la segnalazione. E quindi usate un profilo basso in tutte le bande, pochi lineari, pochi flat, per stare buoni in questo periodo. E io, va bene Antonio, dopo ci sentiamo, buona consegna di Bellombola. Kappa, ci va bene. Ok, cosa parla in sul 3 mi sembra che cosa? Mesina, in PMR, se non mi ricordo male. Metti a gira la destra, poi gira la sinistra, scendi il cavello al centro, cazzo ci metto. Siccome c'ho quel blocco, il monoculare c'ho, no? In qualche parte dovrebbe essere per forza, non mi vedo questa cosa alta, se dov'è, all'inizio di Roma, di fronte ai pompieri, cioè quella palazzina, e hanno installato un ripetitore. Eia, Antonio è dovuto scappare, c'ha un ordine. Eia. Comunque capito in sintesi, sì, che questo dilagare di Pao Bao sta rompendo le scatole e forse la segnalazione è partita, quindi teniamo un profilo basso tutti, tutte le bande, vabbè, io uso solo 27, non troppi watt, non troppi lineari, non troppi amplificati, perché poi magari ci passano un po' tutti, quindi fate la bravi, soprattutto Pomponio. Allora. Adesso domani vado a comprare uno spinotto, devo piazzare un microfono otto poli, in pratica attacco che mu devo fare l'archivo dal 2009. e poi devo modificare anche l'altro, è un casino in pratica, vabbè, devo partire dal microfono prima, controllare dove sono, quali tabletti sono, dove sono collegati, e poi adattarli alla, come si chiama, anzi lo stesso che c'è adesso, il cavetto che c'è adesso quello lo tolgo, lo faccio nuovo direttamente, se la BN Napoli, così non riesco di testa, c'è qui cavi a 1 a 1, e sono a posto, andrà bene. Aspetta, ho preso un telefono, mi guardo i canali LPD, come erano canalizzati, che non me ne ricordo. 0,75, mi pare che era l'altro 0,85, non me lo ricordo adesso. Non me lo ricordo più. No, non è così, ciao. Non è così. Da 0,75, 25 Hz per volta. 20,75, 100, 125, 150 e così via. 25 per volta, canali LPD. Ciao Giulio, giusto, azzeccato, mi ho aperto la tabella adesso e a memoria avevo azzeccato, infatti il canale 4 LPD è 433-150. Esatto, sì, perché si parte da 0,75 e si va avanti per 25 Hz per volta, o kilo Hz o qualcosa è buono. E vabbè, prima lo sapevo, mi sapevo anche i canali, perché tanto tempo fa ci parlavamo tutti i giorni, quando abitavo lì in conservatore Emanuele, con quello di la Liguria, poi dopodiché è finito tutto e c'è buonanotte, avevo dato anche il coso, l'LPD l'avevo dato, perché usciva solamente in LPD di quelle portate, mi sembra che erano standard, non me lo ricordo, ma non mi pare che. Andrà bene, ciao Giulio, ben sentito, ben ascoltato. Ciao, ciao Antonio, ciao Marco. Sì, no, io in PMR, sempre su canale 1, sento sempre qualche negozio che ci lavorano con quella radiolina lì, con quella frequenza, perché sento dando disposizioni, porta questo al parcheggio numero 4, ad esempio, o che so io, carica questo, carica quell'altro e così via. Non so a quale ditta appartiene quel sistema lì, però la stanno usando, dai, quel PMR lo stanno usando appunto per parlare e lavorarci. Vabbè, dai, riprende Marco. A Giulio, stavo raccontando ieri a Pomponio che c'era quella propagazione bella, ha detto Giulio l'hanno sentito con un watt, a chiamate gli hanno risposto. È una cosa incredibile la propagazione. Sì, ieri era favolosa, veramente. Era eccezionale, cazzo, arrivavano segnali qua 9.10, 9.15, anche 9.20. Era fortissimo. Sì, no, io ho avuto togliermi la curiosità, faccio, ma sta a vedere. Non ci credevo che potevo arrivare con un watt solamente, invece mi hanno risposto e basta, ma ho fatto quella chiamata tanto per la conferma, niente più, poi io non ho continuato. Vai Antone. Ehi capo, già va bene, allora come un watt a voglia. Vabbè, io sono anche di fronte a te, quindi ti sentirei perfetto, anche con mezzo watt addirittura. Quindi va bene, piglia un attimino Marco che vado a bloccarmi il paletto, perché gli hanno buttato giù i pini, lo sai, ieri anche stamattina addirittura hanno fatto buttato su quei pini secolari che c'erano nell'hotel. È una cosa impressionante per i pini, una volta lo faceva a vento, si apriva a cazzo come se ci fosse un, come si chiama, un valico, l'aria entrava da lì, cazzo, ti voleva tutta l'aria, invece c'è una pulizia allucinante, arriva l'aria anche dentro la mansarda adesso, figurati. Non so perché cosa hanno buttato giù, li hanno tagliati. Erano i pini secolari quelli, figurati, io li ho conosciuti quando sono salito qui a abitare e c'era già arrivavano alla, a quinto piano della Pazia, c'era vicino, mi hanno spiegato tutto ieri e stamattina. E poi io, Marco, se dovessi essere veramente pignolo, c'è da considerare che in antenna un watt non ci arriva nemmeno, perché quando considero che ho 1,2 di stazionari, e dunque dividendo i watt per le stazionarie sai esattamente quanto in antenna, cioè, praticamente è meno di un watt, non fai qualcosa, dai, siamo lì. Lo sapevi, Marco, che si faceva così per sapere quante watt sono in antenna? Sì, c'era un calcolo da fare, ne abbiamo parlato con Gianfranco l'altro giorno, mi pare fosse Gianfranco, però io ricordavo erroneamente, eppure vabbè, forse l'ho letto su qualche forum civile animatori, che con due di stazionarie perdevi il 10%, invece lui mi ha detto che è di più, dovrebbe essere molto di più la perdita. Tu quanti metri di cavo avevi, Giulio? Che cavo era poi? Vabbè, il cavo è sempre quello, io ne ho 25 metri, ma non sto parlando di cavo, io sto parlando di stazionarie reali che ti dà lo strumento, no? Se tu hai 1,2 di stazionarie, dividi la potenza che stai utilizzando, diviso le stazionarie, il risultato è i watt che sono in antenna, mi sono spiegato? Sì, poi naturalmente l'antenna può essere anche più o meno efficiente e radiarne persino meno anche di quelli, perché se le bobine che hanno l'antenna e il sistema di adattamento potrebbe introdurre ulteriori perdite. Adesso aspetta che faccio là il calcolo. Sì, beh certo, poi magari c'è da considerare anche la lunghezza della linea di trasmissione, ovvio, non sono tanti fattori da tenere in considerazione, però già in partenza tu, quando dai una certa potenza, no, ad un trasmettitore, lo dividi per le stazionarie che ti presenta sul rosmetro e lo dividi per quello, già in antenna ci sono quei watt, poi il resto è da considerare anche la perdita del cavo, è ovvio, insomma tutta una serie di circostanze che non è facile nemmeno intuire esattamente come si deve fare. Quindi stando a questo qua che hai detto, per esempio se io gli do 4 watt, lo diviso per 1,2, l'antenna dovrebbe irradiarne, sempre che li radi 3,3 watt periodico. È già una perdita discreta. Beh certo che sì, ma è così. Ma questo è saputo da sempre, no? È da sempre questo. Non vale solamente in trasmissione, vale anche per il fatto, scusa la rocina, anche in recessione vale, parlando sempre di ricevitori anche, vale anche per quello, perché la gente forse non lo sa, ma ci sono le stazionarie anche nelle antenne che ricevono, le antenne devono essere accordate, o meglio accordate, tarate, non accordate, sì, tarate, l'antenna si tara, non si accorda, e il discorso è quello, Marco. Sì, me ne ero accorto anche con ricevitori, tipo quella radiolina tipo Texun piccola, no? Se tu emiti un filo di lunghezza casuale, quel filo che danno in dotazione, quella specie di long wire piccolino, riceve un po' risicato. Se invece gli metti un'antenna risonante come quella veicolare, proprio che era stata addirittura tarata con tanto di misure sullo stilo, allora la ricezione decolla. Caspita, se influisce, altro che. Beh certo, ma è così. È un po' come la tensione, no? La tensione elettrica, per dire. E se tu alimenti un cavo con una lunghezza che sono io di 5 metri, è una tensione. Se tu invece mi alimenti con 200 metri, 100 metri, per dire, misuri lì, la tensione è sicuramente variata, non ci sono dubbi, più lunghezza di cavo c'è, più distorsione si ottiene. Io volevo calcolarmi anche, siccome io ho 50 metri di cavo, ti ricordi? ed è un 213, volevo calcolare in base ai megahertz, in base alla lunghezza del cavo, la perdita, perché gira gira, se perde quei 2-3 dB a 27 MHz, praticamente l'antenna guadagna 3 dB, 3,15 dB, scritto DBI, non mi ricordo come si pronuncia. Il cavo magari ne perde 3, sai, tra spinotti, saldature, eccetera, no? E praticamente non sto guadagnando niente io. Quello che sono convinto che l'antenna mi dia come guadagno invece è pari a... cioè viene annullato il guadagno, tutto lì. E certo, sì, tutto influisce, anche i connettori, tutto quanto, tutto influisce, nella maniera più assoluta. Ci sono quei connettori magari che hanno una perdita e alle volte anche importante, ma ci sono quei connettori magari che sono costosi chiaramente, però che isolano meglio, eccetera, eccetera. Qua è un po' tutte queste considerazioni bisognerebbe fare, ma come si fa a sapere effettivamente? Noi in linea di massima parliamo in quel modo, quel dire 5 watt diviso per 1 e 2, 1 e 3, 1 e 4 di stazionari, e quello è il watt che sto mandando l'antenna, poi tutto il resto, il lavoro che fa l'antenna non lo sappiamo, perché si sa, bisogna fare dei calcoli matematici a livello non so nemmeno come dirlo. No, per carità, ho visto anche le formulette per la patente amatoriale, no, calcoli, formulette, per carità, guarda, molto ma molto meglio le normative, ma la matematica, no, poi la mia mente non è più fresca, come poteva essere 20-30 anni fa, non è per me. Vabbè, ma a parte quello, tutte le formulette, intanto bisognerebbe conoscerli effettivamente su quale base si devono fare i conti, eccetera, eccetera. Però diciamo che quello che interessa a lui, perlomeno è quello che ti sto dicendo, watt diviso stazionario, niente di più. Così è chiaro. Poi anche per il fatto del capo, si sa, in base ai metri del capo di discesa, c'è una perdita non indifferente, perché ogni capo ha la sua perdita, praticamente misurata per 100 metri, che poi se tu ne hai 50, sai che ti è già a metà, praticamente. Stai perdendo la metà della potenza che potresti avere, in caso di capo, per dire che sono io 10 metri, tanto per fare un esempio. Sì, è vero. Io mi ricordo nel 92, quando sono venuto a abitare qua, avevo messo prima di tutto una boomerang full size, no? Quella da, che ha lo stiro a 2,75, quant'è. Però avevo messo 50 metri di RG 58 e non ti dico la perdita che avevo, c'era una ricezione attenuatissima e anche un segnale trasmesso di cacca, ma mi sentivano basso, molto basso, no? In proporzione all'installazione, quindi. E quindi è stato d'obbligo mettere perlomeno il 213 che c'ha quella barra 1000, non mi ricordo come si chiama. Sì, indubbiamente sì. Sì, il 213 adesso su 100 metri io non mi ricordo, ma se ricordo bene perdeva intorno ai 4-10, beh, 4 forse anche di più, per cui si può immaginare quanto perdi, e non è poco, no? Perciò si sa, un cavo meno, con meno perdita sarebbe l'ideale, però alle volte uno si accontenta anche di un RG58 che magari ha 7-8 dB di perdita, tutto lì. Sì, infatti mi pare, guarda, le tabelle poi dipendono molto dal cavo, se la fattura del cavo, se è un cavo proprio cinese oppure se è un cavo discreto, no? Ho visto le tabelle, dovrei perdere un 2 dB circa su 50 metri, 2 decibel, così scritto sulle specifiche, che vabbè non sono tanti, ma non sono nemmeno pochi, ecco. Vabbè, uno dice anziché 4 watt ne mette 8, 10 e compensa così, stanno appena più in banco. Vediamo se è rientrato Antonello, se vuole entrare qualcuno su 10, avanti. Vabbè. Ebbene, Anto, ben rientrato, hai fatto la consegna? Non ho fatto. Già. Salutone Giulio. Ciao Antonio, buona serata. Avanti. Buonasera anche a te. Ah, tu, ti volevo chiedere una cosa, che ieri sera stavo ascoltando un po', poi è entrato quello in baramobile a ruzzare, ma voi stavate parlando dell'olio, dell'olio di semi, ma è vero che un olio di semi è arrivato a costare fino a 5 euro una bottiglia? Ma questi sono matti, sono malati. È vero, è vero, è vero, l'ho pagato l'altro giorno 4 euro e qualcosa. Ma dove? C'è da tipo Conad, quindi un centro commerciale grande, oppure un discount? Da Viro. Da chi? Viro. Oddio, non riesco a capire, scandisci. Viro si chiama supermercato. L'ho preso vicino a casa. Vabbè, Nice, vabbè, diciamo. Però sono tutti così, Non è che... Forse è meno caro, forse l'Eurospin, ma è più di 3 euro. Sì, sì, guarda, io l'Eurospin, Lidl, io sapevo che quantomeno era raddoppiato, quindi se prima lo pagavi 1,20, 1,30, 1,40 in base al tipo di olio, è raddoppiato. Questo bene andando sempre, quindi andando ai discount. Se vai magari da Conad, dai centri commerciali, che sai, quelli oli di marca, te li fanno pagare anche di più, quindi figurati l'olio d'oliva a quanto sarà arrivato. Giulio, niente, le sai, vai avanti. Ma proprio ieri mi stavo dicendo mia moglie, addirittura l'olio d'oliva è tra vergine 20 euro a bottiglia, con la bottiglia da un litro, per cui poi gli altri oli, quelli che si usano per friggere, tipo quelli di girasole eccetera, quelli costano 4,50, una cosa del genere. Stavo parlando proprio ieri con mia moglie, poi non so, evidentemente lì ha sentito la notizia da qualcuno e me l'ha voluto riferire. Allora, io ho l'olio di oliva, olio sardo però, olio di qua, l'ho pagato a 8 euro al litro. E ti è andata bene, mi hai sentito Giulio, quasi 20 euro al litro, naturalmente saranno marche buone presumo, no? Tipo adesso olio d'oliva, quelle marche consuete, dai, quelle di cui fanno pubblicità, però sono matti, questi non hanno limite, cioè la guerra non è nemmeno in Italia, immagina se spero di no, tocchiamo ferro, se si espande la guerra in Europa con questo schiavo di Putin, e te lo fanno pagare 1000 euro al litro, te lo fanno pagare. No, cavolo. Oh, non ho preso olio del cavolo, ho preso olio sardo, olio di Kirchim. Cioè, non è che ho preso olio di che non si piannudano. L'anno scorso era 7,50, quest'anno l'ho messo a 8, 8 euro al litro. Però io ho preso il bidone con 5 litri, ho preso, ho capito. Ed è buono, perdone. Ma io non capisco una cosa, come mai in Italia il governo non interviene per evitare speculazioni? Non interviene mai, cioè lascia che le mascherine ce le facciano pagare 5 euro l'una, come era in pieno di pandemia, l'olio alle stelle, non prendono problemi, non congelano i prezzi, no, non lo fanno. Ma cosa vuoi che ti dica? Comunque a 20 euro è molto caro, non so che tipo di olio sia. Giulio, sai che olio era? No, ma prima di questa guerra qua che è venuta fuori già 3 mesi fa, diciamo che già l'olio di oliva comprato nei supermercati, quello buono, costava intorno ai 13-14 euro già da allora. Poi naturalmente sempre olio di oliva che lo facevano passare per extravergine, c'era olio che costava 5-6 euro, 7 euro, però si sa, in base al costo sicuramente c'era quello di Alghero, credo che sia da quelle parti lì, che costava intorno ai 13-14 euro al litro. Io me ne ricordo che è così. No, allora, olio buono, vero. Lo paghi tra le 8 e 9 euro al litro, e quello è il prezzo, perché te lo posso dire chiaramente. Massimo, qualcuno 10 euro, massimo. È così, che lo vende nei dezzi so prendo un furto, perché no, non costa più di quel tanto. Ah, io, Antonello, sei tu? No, mi ricordo che è così, ripeto, olio d'oliva ce n'erano di diversi prezzi, però quello buono, veramente, che adesso non mi ricordo la marca com'era, che si vende al supermercato, lascia stare l'olio sardo eccetera eccetera, l'olio che vende al supermercato, io quello buono lo pagavo intorno ai 13-14 euro a bottiglia, cioè bottiglia di un litro, poi c'era quello che costava anche molto, ma molto di meno della metà. Scusate, ero io che stava innescando la parecchia. Buonasera, Natalino Alfa 1 da questa parte, salutoni a tutti. Ciao Natali. Ciao Antonio e ciao Marco, non so chi altri ci sia perché mi dovete scusare ma non lo faccio ascolto. Ciao Natali. Ciao Natalino. Ascolta, oh Marco, tornando per un attimo indietro al discorso che avevamo poc'anzi, ho la tabella in mano, per i 100 metri su 28 MHz c'è un'attenuazione del 213, sto parlando, di 3,5 a 28 MHz, sicché siamo più o meno lì, perché a 20, sulla 27 non dice niente, però si dice che c'è un'attenuazione per 100 metri di 3,5. Sì, siamo lì, io ho letto intorno così ai 4, poi sai come fai le saldature, magari poi metti qui, adesso io non voglio inserire, ma metti quei PL di Fusaro e perdi altro mezzo decibel per ogni PL e quindi contornano. Oh, quello, cioè, lasciamo le perdere, quelli che non avvicinano, ma dai, va bene, dai, riprendi Natali, dai, ti assento un attimo io. E pappa, va bene, cosa c'hai contro i PL di Fusaro, tu cosa c'hai, vuoi dire che non servono? Ehi, non tutti, a certi mi esce il pirulino centrale, perché visto che dietro c'hanno una specie di, gli allargano, lì fanno l'orletto, no? E lì certe volte l'orletto non è fatto bene e ti rimane il pirulino centrale in mano. Poi ho sentito anche di cose che non avvizzano, ma a te te le avevo mandate, Natalia, a te le avevo mandate quelle banane che praticamente si divideva il metallo in due, il pirulino della banana era innesto, come andavi a togliere la banana dall'alimentatore ti rimaneva in mano, praticamente l'isolante e il pezzo di metallo dove c'è la vite che blocca il filo, mai vista una cosa del genere? Tutta roba cinese deve essere, boh, pure a me, guarda, mi ricappa la risa, no, già è vero, e sono tutta roba di scarto, adesso mi devo buscare dei PL buoni, devo comprarli, perché, e compro Anfeno questa volta, perché se no è un macello. Beh, Anfenol magari sono pure sprecati per la 27, però se prendi quelli già in bachelite, quelli già sono fatti meglio, il pirulino non salta fuori, quella la vittatura a vita sui baracchini, capito? E questa storia della vittatura a me è capitata prendendo dalla Cina OPL o adattatori, anzi no, erano adattatori, ci avevano le filettature col passo fuori standard. Uno schifo. Beh, magari l'hanno fatto per la filettatura col passo che usano loro ed è diverso dal nostro, capito? Loro non lo sapevano e ci hanno mandato quelli, però beh, noi non ha vita. Sì, Natali, vai indietro nei messaggi. Guarda che ce l'hai quella banana col coso tagliato in due lì. Col conduttore tagliato, guarda, vai su, falla girare quella foto, mi devi non comprare quelle banane che sono allucinanti, quelle che hanno solo una mollettina. Riprendi Antonio, non c'è, adesso ho messo WhatsApp, adesso vediamo un po' se lo trovo qua, quella che mi hai mandato. Ehi, adesso lo mando a Giulio, mi. Non c'è il testo, non c'è il testo, vabbè. Comunque da evitare, proprio al primo utilizzo si sono staccati i pirulini, si sono divisi. Oh, alibito ero, boh, vabbè, una cosa così semplice, no, l'hanno dovuta complicare, praticamente è composta da tre pezzi, tre parti, giusto, vabbè. Fregatene, non l'ho vista come in due. Poi c'è quella mollettina, lo vedi quelle quella specie di filo, è una mollettina per rimanere bello inserito in sede, no? Quando inserisci, anche quella esce, lo sai, c'è uno schifo, quando mai vai a fare roba del genere? Andavano bene quelli, una volta avevano il metallo che era un pezzo unico, cioè avevano la spaccatura a croce in punta tipo dum dum, no? Tipo pallottole dum dum, erano perfetti, no, li hanno cambiati, porca miseria, va. Giulio ci sei? No, Giulio si è allontanato, forse anche Antonio ci sei? Sì. E beh, tu lo studio come va, Natalia? E domani devo andare, lo studio come va, ma adesso domani c'è un'altra situazione, domani vado, domani sera, ogni venerdì sera, non ora di lezione. Io manco, io per il caldo, dice che sale la temperatura, non so fino a quanto. Io già mai sto tappato in casa, per carità, guarda, come uscire a fine serata quando il sole è prossimo a calare. Infatti, dice che scalda, ma che dovresti di calcio, io ho la macchina e guarda, mi tocca andare a piedi, prendermi la macchina, da dov'è, e andare di là domani sera. Ma è un macello. Au! Chi è che sta facendo il cane? Au! Ehi, sono io. Se non fosse Antonello che era rientrato. Sì, stavamo parlando di spinotti, di eccetera, di perdite, eccetera, di olio, eccetera. Cioè, costa più l'olio di semi a Giumà che l'olio motore per la macchina. Fuori di gabbo. Uso un motore buono, non paghi un bemme. Ma non a quel prezzo che avete detto voi. Sono piccoli. Che cosa? L'olio di oliva? E allora? Fatta, ma la roba la chiudi. Non sei tu ad adattarti a loro. Questa guerra sta distruggendo tutto. Non è detto. No, aspetta, Natalia. Se vorremmo vabbè di roba di aerospine, di ghiaccio, così, una ciaffe pure a 3,50 euro la ciaffe. Se lo vuoi trovare, un olio buono, sardo, lo paghi, tra le 8 e 9 euro, massimo 10 euro. Ozzo Vardone, che so buono, me. Capito? Il prezzo è quello. Quello sì, poi il prezzo normale, però. Capito, se è olio buono, minimo a 8 lo paghi, se no non è olio sardo, vuol dire che mi sanno a che cosa le rimane. Io sto prendendo quello Kirchi, sto prendendo buonissimo. Che lo fanno? A Zaga sono i padroni, chi si che va nel Frisbar, via Tempio. È molto buono, Me lo dici magari al telefono, che serve anche a me così. Kirchi, olio Kirchi, lo sai dove devi andare a prenderlo? Vabbè, io lo prendo lì. Lo prendo lì in via Luna e Sole, lo prendo. E vabbè, me lo dici al telefono, che così almeno vado e me lo compro lì. Prendo quello da 5 litri, già ti chiamo. Ehi, quando hai 5 minuti di tempo, che anche a me mi serve così per la salute mia, devo bere roba come si deve. Eh sì, allora lo prendete buonissimo. Avanti ieri mi ho fatto l'ubanino, taggio buoso, ha già tagliato la pomata, ha già ubbigliato Caprese, mi capito, e poi un goccio d'olio d'oliva ultimo, la mozzarella, origa, ma ultimo un goccio d'olio d'oliva, buonare duera, olia. Mia Macu, Giorgio, si può riusare l'oliva alla Caprese, la mulatta con rubani, Giorgio è buono. Io per esempio non posso mangiare rubani, a chi si mangia rubani subito basta la glicemia. Sì, vabbè, ogni tanto un stuzzichino già, andiamo a far zimare, dai. Ehi, è un zombo.